aumenta verità, aumenta falsità. E si può dimostrare che se io tolgo via falsità, da una teoria falsa, io tolgo via anche verità. Cioè, in sostanza, non c'è, dal punto di vista logico, come voleva Popper, questo aumento di verisimiglianza. Tra due teorie false, una non può essere più vera di un'altra. Sarebbe come dire che tra due specie biologiche estinte, una non può essere più viva dell'altra. Questo esito tecnico, dicevo, banale, basta un po' di logica proposizionale, banale, ha degli effetti veramente, dicevo, devastanti. Perché? Perché a questo punto è intervenuto Larry Lodan, il quale ha detto, bene, se le cose stanno così, o noi vediamo che da una parte, per le ragioni di Tusky, non abbiamo un criterio di verità. Dall'altra parte, per le ragioni di Tichy, Harris e Miller, il criterio di Popper, di verosimiglianza, appunto, è sbagliato. Quindi dice Lodan, cosa facciamo noi altri? Noi diciamo, dice Lodan, vada bene, che tra due teorie scegliamo, vada bene, la teoria che all'epoca risolve più problemi e problemi più importanti. Cioè si passa a standard pragmatici. Banalmente, io sono un medico e sono all'ospedale, ho due teorie terapeutiche, una risolve 5 casi, l'altra ne risolve 15, supponiamo. Io so che le due teorie sono sbagliate, ma cosa faccio ragionevolmente? Prendo la teoria che salva 15 casi invece che 5. Cioè, ecco, dice Lodan, ecco, abbassiamo gli standard e arriviamo a standard molto pragmatici. Prendiamo la teoria, appunto, che risolve più problemi, senza dire che è vero o più verosimile. Anzi, dice Lodan, eliminiamo questi termini, appunto, dalla scienza e dal linguaggio quotidiano. Questo per dirvi che cosa? Che in sostanza la verità, almeno nella scienza, oggi se la passa male. Allora voi mi direte, chi è l'uomo razionale della scienza? Bene, faccio due asserti soltanto. Nella scienza, né gli asserti universali, leggi generali, né gli asserti particolari sono certi. Quindi, se c'è una persona che pensa che razionale nella scienza è colui che fonda la teoria, che trova un terreno solido della teoria, bene, costui si illude, è veramente un irrazionalista. Cioè, per quello che oggi sappiamo, senza essere dogmatici, noi diciamo che razionale nella scienza non è colui che fonda la teoria, ma chi la sfonda. Cioè chi sa trovare fatti contrari o alternative alla teoria in modo da scalzare la teoria vigente. Questo se irrazionalmente ci preme fare scienza, perché non siamo obbligati a fare scienza. Qui fai Raben ragione. Nessuno di noi è obbligato a guardare il mondo con gli occhi di Galileo per capirlo e dominarlo, piuttosto che quello di San Francesco di Lao Tse per contemplarlo. Nessuno è obbligato, sono scelte logicamente irrazionali. Allora, ecco, diciamo che razionale nella scienza non è chi fonda la teoria, ma chi la sfonda. E diciamo ancora di più, che dietro alla ragione scientifica c'è una scelta, e va bene, penso alle parole, c'è una scelta irrazionale della ragione scientifica. Perché, lo ripeto, nessuno ci obbliga appunto a guardare il mondo con questi occhi scientifici. E c'è ancora di più perché? Perché appunto, ex definizione, la scienza non può risolvere problemi né etici appunto né religiosi. Cosa posso sperare e cosa devo fare? Detto questo, qualcuno mi dirà, lo so che darò l'impressione di dal fondo al mondo, ma siccome mi piace provocare anche, io sono un provocatore da tanto tempo, quindi lo faccio volentieri. Ora vediamo un po', in etica, quando noi parliamo di valori, forse che siamo capaci di fondare questi valori? Cioè, se prendiamo gli schemi di Kelsen, in cui noi vediamo, per esempio, che una norma si fonda appunto accettandone un'altra e così di seguito finché arriviamo a quella che è la norma fondamentale. Poi ci chiediamo, ma questa norma dove si attacca? E Kelsen dice, su niente, sono scelte irrazionali. Ovvero siamo capaci ancora noi altri di poter fondare o di credere che siamo capaci di fondare appunto queste norme fondamentali. Quando mi pare che era Gorky che dice a Lenin, ma qual è la norma fondamentale del marxismo? E Lenin risponde, la rivoluzione. La rivoluzione. E per questo deve sacrificare l'amicizia, deve sacrificare la verità. quella cosa, la rivoluzione. Io ricordo tanti anni fa un dibattito in televisione tra Pajetta e un altro, e uno disse a Pajetta: ma allora la verità, l'amicizia? No, sono calpestabili, perché quello che conta, lotta di classe e rivoluzione. E uno mi dice: ma perché io devo accettare questa lotta di classe come valore fondamentale? Beh, esistono forse ragioni costrittive? O sono pure scelte, dal punto di vista logico, pure scelte? E quando Cristo comanda l'amore, cioè l'amore naturale, sì, tanto quanto l'odio. La storia, la terra è inzuppata di sangue versato in nome di odi, anche religiosi. E Cristo comanda l'amore, e di porgere l'altra guancia. E perché io devo porgere l'altra guancia? Come dice Max Weber, no? È forse dignitoso porgere l'altra guancia? È veramente dignitoso porgere l'altra guancia? Perché devo farlo? C'è forse anche qui una scelta, un fondamento razionale di questo valore? Scelta di fede. Ma vengo al punto che vi interesserà di più. Perché? Perché tanti colleghi si reputano, lo so, non è facile, tanti colleghi si reputano incontrovertibili. Io ho vissuto tanti anni in questa università italiana, ho conosciuto marxisti dall'ideologia scientifica intoccabile, psicanalisti gonfi di verità, di tante specie, e poi ho conosciuto metafisici cattolici italiani, che sono in grado di dimostrare incontrovertibilmente a tutto il mondo che esiste il metempirico. C'è spazio per tutti, ovviamente. C'è spazio per tutti. Allora, siccome c'è spazio per tutti, c'è spazio anche per me, che penso che queste cose non si possono fare, forse sono anche dannose farle. Perché dico questo? Perché la domanda che si pone è la seguente. D'accordo, possiamo essere tutti più o meno convinti che nella scienza si è razionali quando creiamo alternative, distruggiamo teorie, portiamo fatti contrari, non possiamo fondare le teorie, eliminiamo la certezza e avanziamo in progresso. Va bene, sarà una teoria, sarà un paradigma, sarà un programma di ricerca. In ogni caso si è d'accordo che nella scienza, appunto, le teorie sono rimpiazzabili e sostituibili. Va bene, ma uno potrà dire: ma allora la razionalità è soltanto della scienza? Non c'è forse una ragione? La ragione non va anche oltre. Cioè, in fondo, la filosofia, le teorie filosofiche non sono forse razionali? Cioè, le teorie scientifiche sono razionali perché confutabili. Ma le teorie filosofiche, siccome non sono confutabili fattualmente, le scegliamo a naso? Ovvero, esistono delle ragioni, non sentimenti o fatti storici. Esistono ragioni per cui noi scegliamo una teoria invece che un'altra. E bada bene che le teorie filosofiche, o chiamate metafisiche, non mi interessa niente, sono le teorie per noi più importanti. Immagini dell'uomo. L'uomo è solo corpo. L'uomo è anima e corpo. L'uomo è libero. No, l'uomo è determinato. L'uomo ha un destino eterno, no, l'uomo ha il destino degli altri animali. Cioè, queste immagini dell'uomo sono per noi le cose più importanti. Concezione della storia. La storia è guidata da leggi di decadenza, no, la storia è guidata da leggi di progresso, Marx e Hegel prima, ovvero la provvidenza. La storia è determinata, no, siamo liberi nella storia. Come diceva Ryle, no? La storia procede come un autobus o come un treno. Cioè, determinata, o in qualche modo ci possiamo spostare in qualche parte, diciamo così. E come dicevo, concezioni dell'uomo, antropologie filosofiche, immagini della storia, teologie e filosofie della storia, idee del diritto, quale stato accettare? Quello democratico per quali ragioni? O quello totalitario per quali ragioni? Concezioni della morale, idee di scienza, per esempio, o di conoscenza, le varie filosofie. E vi dicevo qui, noi abbiamo questa idea fondamentalista. Voi pensate per esempio cosa ha significato Cartesio, ma anche tutto l'empirismo. Sì, tutte le teorie sono più o meno vaghe, ma c'è un punto, la sensazione che è appunto questo fondamentum in concussum, no? Ovvero sono i principi razionali, cioè l'Occidente, ovvero Cartesio, la coscienza, cioè si è sempre marxisti, no? Cioè, sempre cercato questo aggancio, ecco, questo fondamentum inconcussum per dimostrare che c'è qualcosa appunto che non può crollare. Ecco, ho trovato un problema. Abbiamo teorie filosofiche molto importanti e vi dicevo che la Terra è inzuppata di sangue versato in nome di teorie non falsificabili. Galileo fu intelligente anche in questo. Non si fece ammazzare per una teoria scientifica, perché bisogna fare ammazzare per una teoria scientifica. Però gli uomini si fanno ammazzare per idee dell'uomo, della storia, dello Stato, di Dio, eccetera. Cioè le teorie filosofiche o metafisiche, badate bene, non è che sono sciocchezze. E noi stessi oggi siamo pieni di teorie metafisiche o filosofiche. Il giudice che condanna qua a Trento, oggi in tribunale, presuppone la metafisica che l'uomo è capace di intendere e di volere. E questa è una teoria metafisica. Ma qui la Gemma mi dà ragione. Lo psicanalista che è lì vicino al giudice e guarisce una nevrosi dice che l'uomo, quest'uomo, non è capace di intendere di volere, anzi è tutto inconscio, è tutto determinato. Vuoi condannare? Usa questa metafisica. Vuoi guarire? Usa quest'altra. Ma metafisiche possono essere non solo dentro a una polis, metafisiche contrastanti, ma dentro una testa, come nel caso di Kant. Ah sì, l'uomo è determinato come pezzo di natura, ma l'uomo è anche libero. È libero o determinato? Ecco, vi dicevo, sono le cose più importanti. Il problema è questo. Siccome una demarcazione rilevante, oggi accettabile, è quella secondo cui diciamo che le teorie scientifiche sono tali perché falsificabili, cioè smentibili fattualmente, noi ci diciamo, ma queste teorie filosofiche, lo ripeto, immagini dell'uomo, concezioni della storia, idee dello stato del diritto e della conoscenza umana, queste concezioni, queste idee filosofiche, sono appunto, siccome sono inconfutabili, sono irrazionali, le scegliamo a caso, ovvero esistono delle ragioni di volta in volta per selezionare delle teorie metafisiche, cioè esiste una ragione filosofica oltre che una ragione scientifica. Bene, qui sarò molto rapido. William Bartley, questo filosofo americano, un allievo di Popper, che poi ha trascinato Popper su questa, diciamo così, su questa linea, cosa sostiene? Cosa ha sostenuto? Sostiene appunto che, guardate bene, come le teorie scientifiche sono razionali perché fattualmente confutabili, le teorie metafisiche, anche se non tutte, vedremo perché, anche se non tutte, le teorie filosofiche o metafisiche sono razionali perché criticabili. E cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire che una teoria è razionale perché criticabile anche se non è scalzabile dai fatti? E allora a questo punto, ecco, Bartley delinea quella che lui chiama questa ecologia della razionalità. Cioè, quando nasce una teoria filosofica, qui banalizzo, grazie, scusami se io sarò banale nella storia filosofia, qui, ma insomma, anche io ho scritto una, insomma, adesso banalizzo tanto per dare l'idea, insomma. No, perdonami, voglio dirti, ecco. Anche gli amici De Rossi mi perdonino se sono un po' rozzo, ma voglio dire alcune cose, alcuni concetti, appunto. Allora, il problema è questo. Il primo punto è questo. Teorie metafisiche sono, guardate bene, una serie di tesi, sono appunto sensatissime. No, come dicevano i positivisti, che sono nonsensi. Noi capiamo benissimo cosa dice Marx. Lo capiamo benissimo, lo capiamo. Cosa dice Hobbes? Lo sappiamo, è chiarissimo cosa dice Hobbes. Cosa dice Cartesio? Poi è limpido. Teorie metafisiche sono sensate. Teorie metafisiche sono importantissime, dicevo, umanamente. Teorie metafisiche, alcune, possono essere appunto questa aurora della scienza. Ma noi dobbiamo essere più profondi, perché? Perché esistono metafisiche senza le quali la scienza è impossibile. Per esempio, che esiste una realtà, questo realismo, è una metafisica. O per esempio, badate bene, che questa realtà sia in qualche modo ordinata. Anch'esso è un presupposto metafisico. Cercare la verità scientifica è un presupposto metafisico e così di seguito. Poi esistono che sono le metafisiche influenti. È chiaro che Cartesi, col suo meccanicismo, ha influito molto di più, per esempio, che le teorie scientifiche sulla scienza. Perché dire, per esempio, che tutto il mondo è una macchina, l'animale è una macchina, significa dire che studia gli animali come macchine, piuttosto che abbiano uno spirito vitale, eccetera, eccetera. Cioè, dà un impulso alla fisiologia che è veramente enorme. Ecco, sono queste metafisiche influenti. Ma di nuovo torna al problema. Come possiamo dire che queste teorie metafisiche sono razionali se sono inconfutabili? Allora, Dicono questi signori, Bartoli e poi anche Popper, che stavo su questo punto trascinato da Bartoli, le teorie filosofiche non sorgono per caso, ma o metafisiche, sorgono appunto per risolvere problemi urgenti, pressanti. E allora noi dobbiamo, e di fatto lo facciamo così, ha fatto la storia, dobbiamo criticare queste teorie etiche o metafisiche o filosofiche in base al problema che risolvono in quell'ambiente culturale. Per cui noi diciamo che sono teorie, poi faccio degli esempi, sono teorie inconfutabili, ma sono teorie inconfutabili che sono razionali. Perché? Perché sono predicabili. E faccio l'esempio. Hobbes vive al tempo della guerra civile. Evidentemente al tempo della guerra civile il problema più pressante per un filosofo politico è la sicurezza. Tu esci di casa, ti pugnalano, cosa succede? Beh, come facciamo la sicurezza? Dice Hobbes, perché c'è la guerra civile? Perché le fazioni non si mettono d'accordo. E perché non si mettono d'accordo? Perché hanno idee diverse sulla giustizia. Quindi justum. Bene, decidiamo allora che diventi giusto quia e quod justum. Una cosa è giusta perché è comandata. Da chi? Da chi ha il bastone nelle mani e fa la teoria del Leviatano. Ma dietro a questa teoria qui, badate bene, c'è una teoria filosofica dell'uomo. L'uomo è un lupo per l'altro uomo. Lo stato di natura, questa invenzione, lo stato di natura, è appunto uno stato di belligeranza. Allora, se non vogliamo scannarci, vendiamo la libertà e acquistiamo sicurezza. Quindi Hobbes fa una metafisica funzionale a questo problema, che la sicurezza, appunto, che la sicurezza, ecco, nello Stato. Poi l'appoggia a quello che era la scienza dell'epoca, diciamo così, e fa tutto molto compatto. 30 anni più tardi, quando gli inglesi erano abbastanza sicuri, 30 anni più tardi, Locke scrive l'Epistola della Tolleranza. E dice, ma no, lo stato di natura non è quella cosa così brutta che uno che dice Hobbes, è appunto uno stato di pacifica benevolenza, diciamo così, è una cosa. Cioè inventa un'altra metafisica appunto per risolvere questo problema. Prendiamo il caso del marxismo e vediamo cosa vuol dire in questo caso che il marxismo è una teoria filosofica criticabile e quindi razionale. Popper ha speso la vita, badate bene, per criticare teorie metafisiche, marxismo, storicismo, olismo, determinismo, eccetera, eccetera. Tutte teorie metafisiche, badate bene, inconfutabili, ma criticabili. Il caso del marxismo. Se noi prendiamo alcuni nuclei, la dialettica, voi sapete, la critica di Popper è appunto, va al cuore, no? Perché? Perché dice Popper in sostanza, i marxisti scambiano quello che è la contraddizione logica con quella che è una condizione dialettica. Ora, questo contrasto dialettico, ecco, appunto è un contrasto di interessi. Sono appunto fatti storici che possono essere e devono essere descritti in teorie non contraddittorie. Quindi è veramente un mito, anche perché è falsificabile, eccetera, eccetera. Ma prendiamo il caso del metodo storico. È evidente, dice Popper, che questo metodo storico non fa altro che far diventare metafisica, appunto, che cosa? Un fatto storico. Assolutizza un aspetto, appunto, storico degli eventi umani. E poi dice ancora Popper, guardate bene, i marxisti fecero all'inizio delle previsioni. Le previsioni furono contrarie, cosa fanno i marxisti? Rattoppano la teoria in modo tale che i conti tornano per la teoria e non per i fatti. 3 tipi di critica. Una, logica, l'altra, metodologica, e la terza ancora, epistemologica. Cioè dice Popper, in sostanza, da una parte, il marxismo, che può essere scienza, confonde questi due tipi di contraddizione. Questa appunto è una questione logica. Poi dice Popper, dall'altra parte cosa fanno i marxisti? Assolutizzano in maniera indebita appunto un fatto, un aspetto della realtà e lo fanno diventare il fondamento della storia, un fondamento metafisico. Quindi questa è una critica di nuovo di tipo metodologico, cioè non puoi fare queste estrapolazioni illecite. E poi dice tu contravvieni il metodo scientifico. Cioè, cosa si fa? Si prendono dei pezzi assodati della cultura dell'epoca e si scagliano contro, diciamo così, la teoria metafisica. Si scagliano per criticarla. Non perché è fattualmente confutabile, ma perché logicamente, metodologicamente, e in qualche modo, ecco, sì, dal punto di vista storico, perché ha studiato i fatti, appunto, criticabile. Potrei portare molti altri esempi, ma la tesi di fondo è questa, che le teorie, alcune teorie metafisiche, filosofiche, induttivismo, eccetera, essenzialismo, cosa dice, sono criticabili, anche se non confutabili. Potremmo portare dopo altri esempi. Allora a questo punto dice, qualcuno dirà, sì, ma c'è un problema filosofico importante, forse il più importante. Perché l'essere invece che il nulla? Tu puoi fare le metafisiche del mondo, biologiche, eccetera, eccetera, metafisiche influenti, cose di seguito. Ma c'è un problema di fondo, perché in fondo tutta la scienza non potrà fare altro che dirti smentibilmente e parzialmente alcuni pezzi di mondo. La scienza presuppone il mondo, ma questa realtà, supponiamo questa nebulosa primitiva, chi ce l'ha messa? È il tutto, ovvero no? Perché l'essere invece che niente? Ora a questo punto badate bene, qui io torno a Kant. Perché? Perché penso che l'uso trascendente della categoria della causalità, appunto, è un abuso e non è un uso. In poche parole, se uno mi dice c'è il mondo, quindi c'è Dio, io potrei dire c'è il mondo, quindi c'è niente. C'è il mondo, quindi esistono quattro dei, anzi, cinque dei esistono. E c'è una gerarchia. In sostanza, quando noi passiamo dall'empirico al metaempirico, non c'è più il controllo. E quindi dice Kant, ora puoi dire quello che vuoi. Il vecchio Matiussi, col suo veleno kantiano, questo fatto l'aveva capito. Cioè aveva capito che se non si distrugge questo punto qua, vale bene, tomismo, sono tutte cose che non si reggono in piedi. Cioè il veleno kantiano era questo, cioè era questo nucleo, cioè dell'abuso trascendente di queste categorie. Ora io vi chiedo, siamo forse noi capaci, ecco, di fare questo salto in maniera razionale? Tuttavia la ragione, se a mio avviso non può fare, finché non si smentisce questo punto kantiano, se non può fare questo, se cioè non può fare i preambula fidei in modo tradizionale, cioè provare che esiste il metempirico e poi dire, ecco, che questo metempirico è Dio cristiano, per esempio, può fare altre cose, cioè può veramente fare un grande spazio. Ma in che senso? Appunto nella eliminazione dei vitelli d'oro. E qui penso che almeno su questo punto il consenso sia più o meno generale. Cioè, quello che noi vediamo oggi, il lavoro razionale, in cosa consiste? Nello sfasciamento razionale, con mezzi molto forti, non onnipotenti, perché domani possiamo vedere che noi abbiamo sbagliato, che la scienza non dà certezza, che ha dietro di sé scelte irrazionali, che non può risolvere problemi etici o problemi di senso della vita. Che l'etica, badate bene, questo dimostra la ragione oggi, per quello che può, che l'etica appunto non può essere fondata in maniera razionale e assoluta, che appunto non c'è un criterio razionale per decidere quale sia la società perfetta, ecco, e non abbiamo affatto metafisiche incontrovertibili. Cioè tutte queste cose sono cose umane e quindi storiche, falsificabili o criticabili. Cioè effettivamente la ragione qui fa piazza pulita, come diceva Kant, di questi miti, non della filosofia, non delle metafisiche, ma delle pretese assolutistiche di alcune metafisiche, che è cosa diversa. Allora non si capisce, ma antisoli, ecco questo antimetafisico che distrugge queste cose qua, che fa questo e fa quell'altro. Abbiamo visto sui giornali queste cose pettegole in questi ultimi mesi. Sono veramente delle falsità. Non è vero questo, è falso. Io non dico che questa metafisica, ma no, dico solo l'università della scienza, l'ho scritto già tanti anni fa, questa roba qua, e dico che sono anche razionali. Ciò che qui io combatto, lo ripeto, sono le pretese assolutistiche, onnivore, fondamentalistiche di alcune persone che dicono che loro possono provare queste cose in modo incontrovertibile. Io dico a queste persone, sì, ma finché tu non distruggi quel presupposto kantiano, queste cose sono impossibili. Allora, a questo punto qualcuno mi dirà, d'accordo, c'è questo grande spazio, cioè la filosofia non dimostra Dio, tuttavia, almeno questa filosofia, vale bene, io non voglio dire questo, almeno questa non dimostra Dio, non dimostra Dio, cioè fa spazio a questa possibilità. Allora voi capite che la prima conseguenza è questa, che l'ateo, non è più scientifico di me, che credo. Io sono un fideista, ma anche l'ateo è un fideista. Non è che l'asserto Dio non esiste è più scientifico dell'asserto Dio esiste. No, signori miei, dal punto di vista logico, i due asserti non hanno uno più valore dell'altro. l'ateo non è più scientifico di me. E allora di nuovo il problema. Ecco, ma perché appunto l'essere invece che è nulla? O tradotto più banalmente, ma qual è il senso della vita? Ecco, allora a questo punto io dico, e brevemente qua, questo qui per me, se facciamo un po' di logica erotetica, non è un problema, ma è un'invocazione. Un'invocazione di un senso assoluto della vita che l'uomo, con i suoi attrezzi scientifici o filosofici, non riesce a darsi. È una invocazione, dal punto di vista anche logico. È veramente una domanda, ma una domanda di senso. Allora, se questa ragione elimina questi vitelli d'oro, sostiene che non siamo assoluti terrestri, ecco, non fonda la fede, ma apre la fede. Allora, a questo punto, viene fuori di nuovo il problema. Ma allora tu, perché credi a questo invece che a quest'altro? Io potrei rispondere in due modi. Il primo, molto banale. Se io fossi nato nelle terre del nostro venerabile buddista, probabilmente sarei un buddista. Se lui fosse nato nelle nostre terre, probabilmente sarebbe un francescano, sarebbe un cristiano. Probabilmente, dico io. Ecco, smentitemi. Questo, dopo, mi direte, questo è una questione fattuale, non è una questione logica. E io vi dico, sì, avete ragione, questa è una questione fattuale e non logica. Ora, abbiamo un problema. Ma perché tu credi, invece che essere ateo, o invece di prendere un'altra fede? Allora, a questo punto, ecco, veramente, io tiro fuori il mio fideismo. Io dico, non ho ragioni logiche, non ho ragioni empiriche, certo quelle della nascita, diciamo così. Però, a questo punto, vado bene. Io ripeto la scommessa di Pascal. Pascal dice, no, diceva anzi un personaggio di Dostoevskij, se io avessi saputo che il mondo era così brutto, certamente non avrei preso il biglietto d'ingresso. Tuttavia, ormai ci stiamo, il biglietto d'ingresso l'abbiamo avuto e stiamo qua dentro, appunto. E stiamo qua dentro. Dobbiamo scegliere. Cioè, il problema del senso della vita, se ci sia o non ci sia, e quale sia, non è un problema che possiamo eludere. Dobbiamo risolverlo. A mio avviso non abbiamo attrezzi razionali. A mio avviso non è un problema, ma un'invocazione. A questo punto vi posso dire, ma tu hai scelto? Sì, ho scelto. Per ragioni storiche? Sì, per ragioni storiche. Hai ragioni razionali? No, non ce l'ho. Cosa hai fatto? Ho fatto come Pascal. Cioè Pascal dice, devi per forza scegliere, sei imbarcato. E i casi sono due. I casi sono due. Tu devi scegliere. E io ti dico che fai bene a scegliere che Dio esiste. Perché? Perché se perdi, perdi niente. Se vinci, vinci tutto. Di nuovo obiezione. Ma allora tu sei un opportunista. E io dico, e perché non dovrei esserlo? Uno va al bar, paga e non vuole roba cattiva. Andiamo in macchina e siccome non vogliamo morire, rispettiamo le regole del traffico. E di fronte alla cosa più importante della vita, io non dovrei essere un opportunista? No, io sono un opportunista e su questo punto io sono uno sfrontato opportunista. Queste sono le mie ragioni. Grazie. Ringraziamo il professor Antiseri delle provocazioni che ci aveva annunciato e ci sono poi state. Chi lo conosce sa che non potevano mancare. Diamo il benvenuto e chiamiamo al tavolo della Presidenza, qualora all'assessore alla provincia, assessore alla cultura alla provincia di Trento, che ci ha onorato della sua presenza. Ora interrompiamo. Complimenti. Ho solo sentito la. No, andiamo avanti. Ecco, noi dovremmo adesso fare un brevissimo intervallo di un quarto d'ora e poi avere alcune comunicazioni. Devo dire anche che quanti hanno pronto le comunicazioni possono consegnarmele prima di lasciare Trento, prima del termine del convegno, quanti cioè hanno comunicazioni pronte per la stampa, perché di queste comunicazioni verranno raccolte in un volume di atti che si preannuncia molto ghiotto per i contributi e per il panorama dei problemi trattati. Quindi ci vediamo alle 11:30 nuovamente qua in questa sala. Complimenti. Volevo... Dimmi. Posso dire? Dimmi. Sono migliorato. Ecco, vi dico, accomodati. Non mi ricordo, stasera ci si mette d'accordo. Siete in troppi a volerla fare.